Focus Economia. Diciassette Focus Economia, un saluto da Vincenzo Miglietta. Sistema del credito alla prova dei mercati dopo l'esito degli stress test diffusi dall'autorità bancaria europea lo scorso venerdì in tarda serata. Per quanto riguarda Milano, dopo un'apertura questa mattina di slancio, l'andamento è andato a spostarsi in terreno negativo. Male tutte le banche oggetto d'esame degli stress test, a tenere solo Monte dei Paschi di Siena. Gli investitori hanno di fatto penalizzato gli istituti usciti bene dall'esame dell'EBA, premiando invece la banca senese che è stata la peggiore degli stress test. Cercheremo di capire allora nel nostro primo approfondimento la logica che vi può essere dietro a questo comportamento apparentemente non coerente. Certo, per Monte dei Paschi va considerato anche il via libera incassato dalla Banca Centrale Europea e dalla Commissione Europea al piano di risanamento. Sotto la lente di ingrandimento oggi poi degli operatori di borsa, in particolare Unicredit, condizionata dalle attese del nuovo piano industriale. Brevemente allora vediamo come si avviano a chiudere i 5 istituti italiani oggetto degli stress test. Banca Intesa -1,98, Unicredit -8,39. UBI -4,45, Monte dei Paschi, dicevamo, l'unica a brillare, +3,57%, Banco Popolare -5,08. Una situazione questa che pesa però sull'intero listino. Il FTSE MIB in questo momento è -1,49%, e poi via via le altre borse europee: Francoforte -0,22, Londra, il FTSE 100, -0,40, Parigi -0,70. Per quanto riguarda Wall Street, che lo ricordiamo a quest'ora alle prime battute, Dow Jones +0,08, mentre Standard & Poor's +0,13%, infine i cambi euro su dollaro +1,117. Al di là della questione bancaria, gli addetti ai lavori si sono concentrati anche sui dati americani. Il PIL nel secondo trimestre ha segnato un'inattesa battuta d'arresto, un dato che probabilmente convincerà la Fed a rinviare a fine anno la stretta monetaria. Altro argomento di oggi, gli ordinativi di luglio e come questi fotografano la congiuntura economica che stiamo vivendo. Il relativo indice PMI dell'Eurozona è sceso a luglio a 52 punti da 52,8 di giugno. Si evidenzia allora un rallentamento che per alcuni economisti è uno dei primi effetti del clima di incertezza legato alla Brexit. Questo è il nostro percorso di oggi. Scriveteci al 349-238-6666 oppure sulla pagina di Focus Economia nel sito di radio24.it. Passiamo ora alle notizie in breve. E con le notizie in breve partiamo, come tradizione di Focus Economia, dalle materie prime. L'oro $1,348,77 l'oncia, -0,18%, e poi il petrolio $41,02 al barile, -1,39%. E di materie prime si occupa l'ONU, che avverte: l'estrazione di materie prime della terra è triplicata negli ultimi 40 anni, da 22 miliardi di tonnellate nel 1970 a 70 miliardi di tonnellate nel 2010, e se i consumi continueranno a crescere, il prelievo di risorse naturali triplicherà entro il 2050, intensificando i cambiamenti climatici, l'inquinamento, i rifiuti, l'erosione del suolo e dei bacini d'acqua. A dirlo, lo dicevamo, è l'ONU, il programma specifico ambientale UNEP, avvertendo che a questo ritmo allarmante di estrazione di materie prime, cioè se la fornitura di alloggi, trasporti, cibo, energia e acqua proseguisse allo stesso modo, nel 2050 ci vorranno 180 miliardi di tonnellate di materie prime ogni giorno per rispondere alla domanda dei 9 miliardi di abitanti del pianeta. Make my day. La Russia, la banca centrale russa, per quest'anno prevede che il PIL si contragga dello 0,3-0,7%. A marzo aveva invece annunciato una flessione di poco superiore all'1%. Nel 2016, stando all'Istituto Nazionale di Statistica, lo scorso anno il PIL russo è sceso del 3,7%. Il Giappone, la borsa di Tokyo, ha terminato le contrattazioni in leggero rialzo nella prima seduta della settimana, in scia alle indicazioni in chiaroscuro dalla Cina sull'espansione dell'attività manifatturiera e in attesa del piano di stimolo dell'economia del governo in Giappone, i cui dettagli dovrebbero essere annunciati domani. L'indice Nikkei segna un rialzo dello 0,40%. Politica e monetaria espansiva per la Banca del Giappone, che ha annunciato di andare in tal senso tramite un raddoppio dell'acquisto di fondi comuni sul mercato per un valore di 6.000 miliardi di yen, pari a 52 miliardi di euro su base annuale. Rimaniamo in Asia, accordo fatto, ma cambiamo argomento, tra Uber e la rivale cinese Didi Chuxing, una fusione da cui nascerà un colosso con una capitalizzazione di mercato valutata circa 35 miliardi di dollari. L'intesa verrà ufficializzata nei dettagli nelle prossime ore. Chiude una lunga guerra per la leadership nel mercato cinese del trasporto passeggeri in auto, lo scrive Bloomberg, spiegando che l'agenzia cinese acquisirà tutte le attività di Uber in Cina e gli investitori di Uber China riceveranno una quota del 20% in Didi. Ed ora il grande capitolo degli stress test, ne parlavamo proprio in apertura di programma. Ora lanciamo solamente alcuni spunti che poi riprenderemo nel nostro primo argomento tra poco meno di 10 minuti. Trattiamo oggi questo argomento proprio perché i dati sono stati diffusi a chiusura dei mercati lo scorso venerdì, quindi è questa la prima occasione per parlarne in Focus Economia, e quindi partiamo da quanto valuta Standard & Poor's in funzione proprio degli stress test, e dice: i risultati indicano che la maggior parte delle banche hanno sufficiente capitale per fronteggiare uno scenario avverso. Il test riflette i progressi che molte banche hanno fatto negli ultimi anni per affrontare la loro debolezza di capitale. Tra la fine del 2013 e la fine del 2015, il campione di 51 banche, che rappresenta il 70% degli attivi bancari in Europa, ha incrementato il suo grado di sostenibilità di circa 180 miliardi di euro. Stiamo parlando a livello europeo, tra breve entreremo nello specifico degli istituti italiani presi in considerazione dall'autorità bancaria europea. Ancora quindi a livello del vecchio continente, negli stress test, con una sola eccezione che poi è Monte dei Paschi, tutte le banche mostrano livelli del capitale di valutazione ben al di sopra della soglia del 5,5% usata nel 2014 nello scenario ipotetico avverso, lo rileva la Banca Centrale Europea. In sintesi, che cosa vuol dire? Che cosa sono questi stress test? I principali istituti europei, l'abbiamo detto poco fa, oltre 50, ne è stata fatta una simulazione di fronte a degli eventi avversi che dovessero capitare da qui al 2018, quindi un impatto su questi istituti pari a quasi 100 miliardi europei. Allora la Banca Centrale Europea e l'autorità bancaria europea che cosa dicono? Dicono che gli istituti europei potrebbero fronteggiare anche i peggiori scenari da qui ai prossimi 2 anni. commenti ce ne sono tanti. Gli stress test confermano che le banche stanno aumentando la resilienza, ovvero la resistenza, la capacità ai fenomeni avversi, e per la Commissione europea si è trattato di un esercizio molto importante anche per ricostruire la fiducia nella solidità del sistema finanziario. Lo ha detto un portavoce della Commissione europea commentando i dati diffusi venerdì. Quest'anno non si prevedeva una soglia minima di capitale, ma erano disegnate affinché l'esercizio di supervisione fosse portata avanti per il settore europeo in corso. L'obiettivo degli stress test era quindi di valutare l'estensione dell'erosione di capitale che ipotetiche dinamiche avverse di mercato possono provocare. Per quanto riguarda l'Italia, in generale il coefficiente patrimoniale CET1, ovvero acronimo di Common Equity, che è un parametro che misura la solidità di una banca, per quanto riguarda quindi queste banche italiane, in base ai dati aggregati, il livello medio è del 7,7%, e abbiamo detto che invece il livello minimo è del 5,5%, e quindi comunque mediamente il settore italiano sopra la media. Guardando intorno a noi, Austria 7,3%, Irlanda 7,5%, Gran Bretagna 8,5%, Spagna 8,6%, Germania 9,46%, Francia 9,7%. Nello specifico Unicredit 7,1%, Intesa è l'istituto che è andato meglio negli stress test, con un CET1 al 10,5% contro lo scenario avverso, Banco Popolare al 9%. E che cosa dice Banca Italia, ma anche poi vedremo il Ministero dell'Economia? Nonostante la severità dell'esercizio e le forti tensioni negli ultimi anni, 4 delle 5 principali banche italiane comprese mostrano una buona tenuta, dicono da Via Nazionale. Per queste banche l'impatto ponderato è pari a 3,2 punti percentuali a fronte del 3,8% della media del campione EBA, sin qui Banca Italia. Poi il Ministero dell'Economia e delle Finanze: gli stress test dimostrano la solidità del sistema bancario italiano nel suo insieme. Abbiamo detto che alla prova dei mercati oggi tutti questi istituti che hanno ricevuto la promozione da parte degli stress test sono andati poi male. Invece Monte dei Paschi, che è stata bocciata dagli stress test, stranamente viene premiata da Piazza Affari, ma viene premiata soprattutto perché la Banca Centrale Europea ha dato il via libera all'aumento delle sofferenze. Via libera della BCE al piano di salvataggio di JP Morgan e Mediobanca per il Monte dei Paschi di Siena. Lo confermano fonti finanziarie. Confermato l'aumento di capitale da 5 miliardi, la vendita di oltre 9 miliardi di sofferenze nette tramite cartolarizzazione, a cui parteciperà Atlante. Confermato anche, sempre per Monte dei Paschi di Siena, la cessione di 27,7 miliardi di sofferenze, i cosiddetti non performing loans, a prezzo medio del 33%. Abbiamo detto del via libera all'aumento di capitale da parte di Monte dei Paschi di 5 miliardi. Nei prossimi mesi capiremo la necessità reale di capitale, se ci sono modi per ridurre l'aumento di capitale, che al momento è fissato a questa cifra, dichiara l'amministratore delegato di MPS Fabrizio Viola. Dubbi però su questo sviluppo positivo per MPS da parte di Corrado Passera. Sappiamo i suoi trascorsi nel mondo bancario, anche recentemente i suoi tentativi politici. Passera aveva fatto una propria proposta per intervenire nel salvataggio cosiddetto tra virgolette di Monte dei Paschi. Passera dice: un aumento di capitale improvviso di 5 miliardi proiettato proietterebbe ingiustificatamente un'immagine di banca pericolosa. Inoltre, un aumento di 5 miliardi in contanti sarebbe molto difficilmente collocabile per svariate ragioni tecniche, ma soprattutto perché la banca non è ragionevolmente in grado di assicurare rendimenti adeguati ad un capitale di questa portata. Così Passera. Però a favore di quanto è stato deciso a Siena arriva sia la Commissione europea che il ministro dell'economia Padoan. La Commissione europea prende nota del piano annunciato da Monte dei Paschi, processo guidato dalle autorità di supervisione e dalle banche interessate. Questo è pienamente in linea con le regole europee, dicono da Bruxelles. Mentre per quanto riguarda Padoan, il governo prende atto con grande soddisfazione dell'operazione lanciata da Monte dei Paschi. Si tratta di un'operazione di mercato che consentirà di rafforzare la posizione patrimoniale della banca e di liberarla completamente dai crediti in sofferenza. Altra voce molto importante del settore bancario è quella del presidente dell'ABI, Associazione Bancaria Italiana, che dice, Patuelli, la credibilità delle banche italiane è rafforzata, ma occorre che le istituzioni europee ed italiane lavorino ancora per realizzare più regole comuni per la corretta concorrenza per il mercato bancario. Argomento questo che affronteremo tra brevissimo, lo approfondiremo con Marco Ferrando, collega del Sole 24 Ore. Adesso anticipo brevemente un altro argomento che andremo ad approfondire nell'ultima parte di Focus Economia. Cala più del previsto l'attività del settore manifatturiero in Italia e tocca i minimi da gennaio 2015. A luglio l'indice PMI è sceso a 51,2 del 53,5 di giugno. Il risultato è inferiore alla stima media di 52,5, ma continua a segnalare espansione da 18 mesi di fila, rimanendo sopra quota 50, che rappresenta la soglia di demarcazione tra contrazione ed espansione del ciclo. Dicevamo quindi dell'indice per quanto riguarda l'Italia 51,2, nell'eurozona la media è di a luglio di 52 punti da 52,8 di giugno. E con questa notizia chiudiamo le nostre notizie in breve e passiamo al nostro primo approfondimento proprio dedicato alle banche e agli stress test. Stress test e banche, argomento molto complesso come avrete capito, e per questo ci aiuta ad approfondirlo il collega Marco Ferrando del Sole 24 Ore, che è collegato dagli studi di Milano. Buon pomeriggio Marco. Buongiorno, buongiorno a voi. Marco, innanzitutto ti aspettavi questi risultati e se sì perché? Ma diciamo che i risultati li prevedevamo anche sul Sole, li avevamo in qualche modo anticipati qualche giorno prima, insomma, quindi erano nell'aria. Forse non era nell'aria la reazione di borsa di oggi, perché insomma, se ne parlerà magari anche più a fondo dopo. Effettivamente la borsa, non solo in Italia, ma insomma in Italia soprattutto ancora una volta, perché i movimenti sono accentuati, ha reagito veramente male. A parte il Monte dei Paschi, che insomma è riuscito a portare a casa un più 1%, per gli altri è andata davvero male, dimostrando che purtroppo ogni esercizio nasce teorico e però diventa subito come dire, il pretesto per trovare delle cattive notizie e vendere per il mercato. E quindi ecco Marco, quali sarebbero queste cattive notizie che ad una prima lettura degli stress test non sembra di scovare nelle 20.000 pagine, se non sbaglio, dei dati diffusi dalla Banca Europea? Sì, è corretto, i dati erano tantissimi e come accade in questi casi, quando i dati sono tanti di fatto ci si può trovare più o meno di tutto. E dunque vale la pena approfondire il discorso sulle italiane. Le italiane erano evidentemente al centro degli stress test per due motivi: uno, perché per tutte le cinque banche esaminate, quindi il Monte Paschi, Intesa, Unicredit, Banco Popolare e UBI, però essendoci tra le 5 il Monte dei Paschi, che come si prevedeva e come si è verificato sarebbe stata l'ultima della classe ed era coinvolta nel piano di salvataggio che ricorderemo, insomma, è stato in discussione fino all'ultimo, infatti è stato ufficializzato proprio venerdì sera poco prima delle pagelle, l'Italia era doppiamente osservata speciale. E che ragionamento si può fare oggi? Si può fare che le italiane oggi scontano essenzialmente due cose. Il primo è che la prima cosa è che, nonostante un buon risultato, questo è peraltro un buon risultato anche se lo confrontiamo con gli ultimi stress test, che erano quelli del 2014, gli italiani hanno dimostrato di sapersi irrobustire a livello di capitale in questi due anni. Nonostante questo, il mercato sembra reagire sullo scenario peggiore, scenario ipotetico creato in laboratorio, diciamo così, dall'EBA e dalla BCE, ma lo utilizzano come benchmark. Quindi dicono, nel caso in cui si verificassero tutte quelle condizioni certo, ipotizzate, per le italiane effettivamente un po' di capitale servirebbe, e questo evidentemente l'hanno scontato. In più hanno esaminato il piano di salvataggio costruito per il monte, in particolare quello che la BCE ha chiesto, il Monte dei Paschi, ipotizzando che cosa succederebbe alle altre banche se le richieste venissero appunto estese anche alle altre banche. Qui probabilmente c'è di nuovo un tema di sofferenze, per cui nel piano di salvataggio si vendono le sofferenze al 33%, che è un prezzo comunque inferiore al valore di bilancio mediamente delle sofferenze di tutte le banche, e si chiede di alzare al 40% le coperture sugli incagli, che sono, diciamo, la categoria subito più pregiata dopo le sofferenze. Evidentemente il mercato ha ragionato sull'estensione, come dicevamo, di queste richieste a tutte le banche. È chiaro che se effettivamente la BCE, cosa che assolutamente non è prevista, dovesse chiedere questo a tutte le banche, servirebbe molto capitale. Marco, dicevamo che la soglia minima era pari al 5,5%, l'Italia la supera abbondantemente, almeno nella media dei 5 istituti, purtuttavia resta un pochino nella forchetta bassa rispetto agli altri paesi europei. Come mai? Diciamo che le 53 banche passate sotto esame da parte dell'EBA era un campione, per quanto si tratti delle banche più grandi del continente, molto eterogeneo, per cui ci sono molte banche nord europee che di fatto hanno molto poco in comune con le nostre grandi banche, le nostre, le francesi e le spagnole. Quindi questo, il fatto che mediamente l'Italia si posizioni in medio bassa classifica, è dato un po' dalla natura del campione da un lato. Dall'altro sicuramente pesa il Monte Paschi, l'unica che finisce sotto proprio in negativo, il capitale in negativo, quindi un vero e proprio buco in caso di scenario di stress, e l'Italia paga anche un po' UniCredit, che è sopra la soglia, in soglia era 5,5%, soglia, diciamo, di sicurezza, come dicevi tu, UniCredit sarebbe al 7%, quindi in teoria in sicurezza, però insomma è un po' poco. D'altronde UniCredit ha appena cambiato consigliere delegato, sta lavorando, non è un mistero, ha un piano di rafforzamento del capitale che molto probabilmente prevederà un aumento. UniCredit, banca grande in difficoltà, tira giù il campione, e non a caso UniCredit ha chiuso molto male la seduta di oggi di borsa, certo, pochi minuti fa era -9%. Marco, brevemente, altra banca grande, la più grande, è Intesa, ottimi risultati, leggermente inferiore ai precedenti stress test, cambia qualcosa, è indicativo? Risposta brevissima. Sì, risposta brevissima, in realtà è vero che peggiora, però peggiorando di più lo scenario avverso formulato dalla BCE, di fatto Intesa ha migliorato, diciamo così, la propria performance. Grazie, grazie a Marco Ferrando, collega del Sole 24 Ore, noi ci fermiamo per il meteo. Focus Economia. E 30 di nuovo insieme, Focus Economia, è il momento della chiusura dei mercati. FTSE MIB in questo momento -1,49% a 16.846 punti. Vediamo velocemente i migliori: MPS +1,07%, Atlantia +0,89%, Ricordati +0,79%, Telecom Italia +0,65%, Campari +0,32%. I peggiori del FTSE MIB sono sono sostanzialmente quelli del settore bancario. Unicredit, ne abbiamo già parlato, meno 9,40%, Banca Popolare meno 6,35%, Banca Popolare di Milano meno 5,97%, Banco Popolare dell'Emilia Romagna meno 5,50%, UBI Banca meno 5,03%. Milano paga più degli altri probabilmente questa coda negativa degli stress test usciti venerdì, e ne abbiamo parlato poco fa nell'approfondimento con il nostro collega del Sole 24 Ore Marco Ferrando. Mentre per quanto riguarda la giornata di borsa, chiedo l'aiuto di Guido Maurino, collega di Radio Core. Buon pomeriggio Guido. Buon pomeriggio. Guido, è così? Milano paga più delle altre piazze gli stress test? Sì, Milano ha pagato oggi molto questa cosa degli stress test, anche perché collegato agli stress test c'è questa cosa del Monte dei Paschi, che venerdì ha approvato questo piano di messa in sicurezza con la cessione delle sofferenze, che avviene a un determinato prezzo che stimano gli analisti che sia circa 27 centesimi. A questo punto tutte le altre banche sono state riviste dagli analisti sulla base di questo prezzo delle sofferenze, e alcune farebbero emergere un possibile deficit di capitale. Chi paga di più sono le banche che sono considerate in una situazione più rischiosa, e oggi l'abbiamo visto con Unicredit, ma anche UBI e BPM, che hanno perso tutte fra il 9% di Unicredit e oltre il 5% di UBI e Popolare di Milano. Ecco, Unicredit in particolare, perché sconta un negativo così alto? A parte Monte Paschi, quella peggiore fra le banche italiane come esito degli stress test. Oggi si torna a ipotizzare un aumento di capitale per l'istituto, un aumento di capitale che potrebbe anche essere superiore ai 5 miliardi di cui si era detto nelle scorse settimane. Qualche analista oggi ipotizzava addirittura 6 miliardi, e proprio questo fa sì che il titolo e la quotazione venga penalizzata a Piazza Affari. Ecco, rimanendo sui bancari, cerchiamo di approfondire il perché invece di questa controtendenza di Monte dei Paschi. Lo hai già anticipato, cosa pesa di più in questa performance positiva di Monte dei Paschi? Il via libera della BCE o l'aumento di capitale? Diciamo un insieme di cose, perché è complessivamente questo piano di salvataggio che è promosso dal mercato. L'aumento di capitale da 5 miliardi è un aumento di capitale molto elevato rispetto alla capitalizzazione di Monte dei Paschi, che non capitalizza nemmeno un miliardo, però è anche vero che è un aumento di capitale che è già garantito con pregaranzie da parte di 8 grandi banche, per cui ha un rischio di esecuzione, ma in questa fase è considerato un rischio relativamente basso. In più c'è via libera alla cessione di sofferenze, certo, che dovrebbe consentire alla banca di poter operare in una condizione di maggior sicurezza, e questo fa sì che oggi si sia mosso in controtendenza il titolo. Ecco, uscendo dai bancari, qual è il titolo che oggi ti ha impressionato maggiormente per il suo andamento positivo? Beh, direi che sono sostanzialmente due. Da una parte Recordati, che ha guadagnato l'1,38% e sta avvicinando i 30 euro per azione. È significativo perché sostanzialmente Recordati è a livello dei suoi massimi storici, non è mai stato a un prezzo così alto. In una fase di turbolenza dei mercati è abbastanza significativo. Il mercato ha apprezzato la trimestrale diffusa nei giorni scorsi e continuano gli acquisti. Un altro titolo che oggi si è mosso bene, anche se poi sul finale ha un po' ripiegato, è A2A, che ha fatto più 0,24%. Nel fine settimana ha annunciato di aver rivisto gli accordi con lo Stato del Montenegro, con cui detiene una joint venture sulla società elettrica del Montenegro. Questi nuovi accordi prevedono che A2A possa uscire all'inizio del prossimo anno da questa joint venture ricevendo 250 milioni di euro dallo Stato del Montenegro. Si tratta di una cosa che è stata letta in modo positivo dagli operatori, perché consente ad A2A di focalizzarsi sulle proprie attività core e lasciar perdere, diciamo così, il Montenegro, che non è considerato strategico. Quindi ecco, il mercato valuta positivamente il fatto che A2A possa sganciarsi da questo legame con il Montenegro. Ricordiamo che A2A produce energia elettrica come core business? Esattamente. Benissimo, questo per quanto riguarda A2A, vedo sempre in terreno positivo Telecom, c'è una qualche ragione particolare? No, non ci sono ragioni particolari, continuano a piovere, diciamo così, i report degli analisti dopo i conti. Anche oggi ne abbiamo visti alcuni che erano positivi sul titolo e questo fa sì che siano stati alimentati gli acquisti. Il titolo era anche salito un po' di più a metà giornata, poi ha ripiegato leggermente sul finale, ha chiuso a più 0,07%. Questo per quanto riguarda Telecom, titolo che è rimasto invariato, Espresso. Espresso, sì, poi nel finale in realtà ha avuto uno scatto, è riuscito a guadagnare circa l'1%. L'Espresso avanza nel suo piano di integrazione con i Tedi, la società che edita il quotidiano La Stampa. Era stato già siglato un memorandum d'intesa, oggi c'è stato l'annuncio della firma dell'accordo quadro per l'operazione, insomma un'operazione di integrazione fra i due dei maggiori quotidiani in Italia, La Repubblica e certo. La Stampa, che è letta in modo positivo dal mercato perché consente ovviamente delle sinergie. E sin qui quindi Guido, lo ricordiamo in collegamento con Guido Maurino, collega di Radio Core, sin qui l'Espresso. Per quanto riguarda Saras, leggo un meno 8,7%? Sì, Saras oggi è stata fortemente penalizzata dai risultati del semestre, del secondo trimestre in particolare. C'è stato un forte calo dell'ordine del 35% dei ricavi che a cascata è andato anche a riflettersi sui margini. Succede che sostanzialmente con un prezzo del petrolio così basso, anche oggi vedevamo che il prezzo del petrolio sta cedendo il 2%, tutti i titoli del settore vengono penalizzati, anche Saras che si occupa di raffinerie ha un impatto negativo sui suoi conti, nonostante poi la società abbia comunque detto di essere in linea col piano industriale, anzi di attendersi nella seconda parte dell'anno di poter fare meglio rispetto al piano industriale, i conti oggi hanno penalizzato fortemente le quotazioni. Ecco, rimanendo sugli energetici, è un comparto questo che in questo inizio di prima estate sembra abbastanza tranquillo, ricordiamo invece anni precedenti in cui in funzione anche dell'andamento del petrolio, Guido, vi erano degli sbalzi maggiori. Mi sembra che per queste settimane il mercato non sconti fibrillazioni sotto l'aspetto del mercato energetico. Diciamo che abbiamo visto alcune trimestrali da parte anche di grandi gruppi internazionali e tutte hanno fatto vedere un po' di calo sia a livello di utili che a livello di ricavi, perché le quotazioni del prezzo così, del greggio così basse vanno a incidere un po' su quelle che sono anche le quotazioni di borsa, perché vanno a erodere i ricavi, vanno a erodere i margini. Certo, non ci sono movimenti enormi, però vediamo come progressivamente anche il prezzo del petrolio stia riscendendo verso quota $40 al barile e questo un pochettino va a influire anche sulla quotazione dei titoli. Cito ad esempio Eni che oggi ha ceduto l'1,97%, Saipem il 2,38%, certo in un mercato che comunque ha perso l'1,7% a Milano, per cui sostanzialmente in linea, però i titoli energetici in questa fase comunque pagano un po' il fatto che il prezzo del petrolio rimanga sotto pressione. Ecco Guido, andando sui titoli più scambiati, vediamo che comunque i mercati hanno sì penalizzato le banche di cui parlavamo precedentemente, ma ne hanno comunque hanno scambiato una grande quantità di queste azioni, quindi al di là della chiusura poi di fine giornata in positivo o in negativo, comunque il mercato si interessa al settore bancario. Come mai questo? Diciamo che dopo gli stress test il mercato ha comunque dovuto riposizionarsi, arrivavamo da una giornata come quella di venerdì in cui comunque le borse erano andate bene, Milano aveva guadagnato l'1,5%, c'era stato un forte interesse e una forte anche scommessa su quello che sarebbero poi stati gli stress test. Oggi, dopo gli stress test, il mercato è andato un po' a riposizionarsi, molti hanno venduto, hanno alleggerito le proprie posizioni, hanno fatto alcune riflessioni sui valori a cui erano entrati. I timori principali oggi riguardano proprio possibili ricapitalizzazioni o possibili necessità di operazioni straordinarie per andare a colmare delle lacune che ci sono ancora nei capitali di alcune banche, fra cui anche alcune banche italiane. questo fa sì che comunque i titoli siano molto scambiati, anche considerando che appunto le banche italiane hanno una capitalizzazione molto elevata rispetto al resto del listino, per cui sono fra i titoli che necessariamente sono fra i più scambiati. Ecco Guido, ti chiedo la gentilezza di rimanere con noi altri due minuti per parlare di altri titoli molto interessanti, per esempio Mediaset per la vicenda con i francesi di Vivendi, come si sta indirizzando la questione? Sì, allora per quello che riguarda Mediaset oggi ha ceduto l'1,5%, ricordiamo che venerdì invece le perdite erano state molto più consistenti. A questo punto diciamo che gli operatori sono in attesa di capire come possa evolvere la situazione, ricordiamo che c'è stata questa rottura fra Mediaset e Vivendi, con Vivendi che non vuole più comprare Mediaset Premium, ne vuole comprare solo più una parte. Mediaset ovviamente non ci sta, ha minacciato azioni legali, però le azioni legali, lo sappiamo, hanno anche tempi che rischiano di essere lunghi. Si parla che sotto traccia potrebbero lavorare le diplomazie, ma in questa fase non è chiaro che punto di mediazione possano trovare. Il titolo anche oggi ha ceduto e secondo quello che riferiscono gli analisti e gli operatori rischia di rimanere ancora sotto pressione nei prossimi giorni, in quest'estate, perché fin quando non si capirà quale può essere lo sbocco per Mediaset Premium, il titolo rischia di dover essere ancora penalizzato in borsa. Ecco Guido, ci avviamo verso la chiusura di questo blocco dedicato alle borse. Per quanto riguarda un'azienda che ha un piede in Italia ma l'altro nel mercato internazionale, parliamo di Fiat Chrysler, com'è il momento attuale di borsa per questo titolo? Allora, Fiat Chrysler oggi ha ceduto l'1,13%, questa sera sono attesi i dati sulle immatricolazioni del settore auto in Italia, si tratta di dati molto significativi perché l'Italia è uno dei mercati principali di Fiat Chrysler, per cui insomma si attende un po' di capire, i dati verranno diffusi verso le 6, come si comporterà Fiat Chrysler. Il discorso di Fiat Chrysler nella giornata di oggi è anche parzialmente collegato a quello che dicevamo prima sull'Espresso, perché l'azionista principale, anzi l'unico azionista della società che edita la stampa, Itedi, e che ha fatto questo accordo con l'Espresso è proprio FCA. FCA nell'ambito di questo ridisegno, di questa alleanza, ha fatto sapere che distribuirà le azioni di cui verrà in possesso, le azioni dell'Espresso di cui verrà in possesso nell'ambito di questa operazione straordinaria, per cui uscirà totalmente dal settore dell'editoria, come era già successo con RCS, e quindi si concentrerà sul core business dell'auto. Certamente. L'ultima domanda Guido, come hanno influito, se vi è stata un impatto indiretto sui mercati, la battuta d'arresto del PIL americano nel secondo trimestre? Sì, ha influito soprattutto nella seduta precedente. È chiaro che ci si aspettava che il PIL americano crescesse a ritmi più sostenuti dell'1,2% annunciato, e questo ovviamente si riflette anche su quello che vediamo oggi a Wall Street. Il Dow Jones è fermo a più 0,07%, e anche venerdì avevamo visto comunque i listini americani andare non propriamente bene. Il rallentamento dell'economia americana ovviamente ha riflessi negativi anche sull'Europa, e sarà da misurare poi nelle prossime sedute, nelle prossime settimane, quanto questo andrà anche poi a ripercuotersi sui ricavi, sull'attività delle aziende italiane ed europee. Certamente, grazie veramente a Guido Maurino, collega di Radio Cor. Noi ci fermiamo per il traffico. Focus Economia. Sì. 17.47, ultima parte di Focus Economia, versione estiva, termina Focus Economia con il GR delle 18. 349-238-6666 il numero per i vostri SMS. Per quanto riguarda quelli inviati nell'ultima mezz'ora, sono indirizzati soprattutto a chiedere il perché di questi mercati che vanno in controtendenza rispetto agli esiti degli stress test. Qualcuno fa la domanda ma si dà anche la risposta, si parla soprattutto di speculazione. Abbiamo cercato di capire il perché di questi andamenti, e non è solamente speculazione, ma abbiamo visto che ci sono tanti indicatori che influiscono sulla performance dei mercati di oggi, e soprattutto l'incertezza su quello che potrà essere la capacità di reggere eventuali stress da parte di alcune banche italiane. Ma comunque cambiamo argomento, siamo ora al cosiddetto indice PMI che cala più del previsto. Parliamo del settore manifatturiero in Italia e tocca i minimi da gennaio del 2015. A luglio quest'indice, rilevato da Market, è sceso a 51,2 da 53,5 di giugno, il risultato inferiore alla stima media di 52,5, ma continua a segnalare espansione da 18 mesi di fila, rimanendo sopra quota 50. Cosa significano questi elementi che vi ho fornito? Lo chiediamo al nostro ospite, che è Francesco Daveri, docente di politica economica all'Università Cattolica di Piacenza, editorialista tra l'altro del Corriere della Sera. Buon pomeriggio, Daveri. Buon pomeriggio. Senta, il Purchasing Manager Index, quindi PMI, sono sondaggi compiuti fra i direttori degli acquisti delle aziende, e che cosa ci indicano, soprattutto per quanto riguarda la congiuntura economica di questo momento? Ma allora, in generale questi indici sono valutati con molta attenzione dai mercati, perché sono forse gli indici migliori, perché più complessivi, di cosa succederà all'economia nei mesi successivi. Quindi questa è la ragione principale per dedicare attenzione all'andamento di questi indici. Sono tra i pochi in grado appunto di farci capire, senza avere una sfera di cristallo, quali sono gli orientamenti dei manager che hanno sott'occhio un po' l'andamento complessivo delle aziende. Questo vanno presi tuttavia con un po' di cautela, nel senso che la loro correlazione con l'andamento del PIL non è sempre in ogni occasione così forte. Quindi ci sono stati esempi in passato per cui questo, per esempio, non è stato, determinati andamenti suggeriti al PMI sono stati poi un po' non confermati dall'andamento effettivo del PIL. Quindi noi li dobbiamo leggere come degli anticipatori della congiuntura piuttosto che a posteriori di qualcosa che è già successo? Sì, sicuramente ci dicono quello che sta per succedere, e insomma si dice sempre che è più facile prevedere il passato, no, del futuro. Quindi naturalmente avere degli indicatori del futuro è una cosa molto preziosa. Il problema è che però a volte appunto questi indicatori non ci raccontano esattamente quello che succede, perché per l'appunto possono, siccome si basano per esempio sugli ordini, certo, gli ordini possono essere cancellati oppure possono arrivare degli ordini inattesi, e quindi di fatto questo fa sì che pur contenendo informazioni rilevanti, non ci dicono veramente già oggi quello che succederà al PIL del terzo trimestre. Ecco che invece è la cosa che vorremmo sapere. E prendendoli per buoni, il dato italiano sceso a 51,2 è comunque superiore alla media, alla quota 50, che viene ritenuta la soglia minima accettabile. È comunque un elemento che può preoccuparci o no? Ci segnala che la crescita italiana è in rallentamento, perché finché otteniamo questi indici con valori superiori a 50 vuol dire che il PIL più o meno, prendendoli per buono, sta crescendo. Tuttavia il PIL può crescere dello 0,5, dello 0,3, dello 0,2, e quello che ci stanno dicendo questi indici da qualche tempo a questa parte, e soprattutto con il marcato rallentamento che osserviamo adesso, è che forse andiamo incontro a un rallentamento della crescita piuttosto brusco, anche se non sappiamo quanto temporaneo, a causa del referendum della Brexit e delle conseguenze che questo referendum ha avuto, piuttosto limitate per i mercati finanziari, ma forse invece più rilevanti per le decisioni di consumo e di investimento. Ecco, proprio qui a questo elemento la volevo portare. Leggo che il PMI manifattura relativo al Regno Unito crolla a 48,2 a luglio, sotto i 50 punti per la prima volta da oltre 3 anni. È possibile che vi sia questa immediata influenza della Brexit sugli ordinativi britannici? Beh, insomma, indubbiamente un effetto viene registrato ed è per l'appunto un effetto che riguarda le aziende, mentre l'effetto sui mercati è stato assorbito abbastanza rapidamente, soprattutto grazie alla presenza delle banche centrali, che è una, comunque garantiscono un paracadute per i mercati, almeno nel breve termine. Sembra che almeno nel Regno Unito le aziende abbiano registrato questa riduzione degli ordini e in generale delle altre variabili che hanno sotto mano, e che quindi segnala un rallentamento in essere. Potrebbe essere però che, così come i mercati si sono corretti nel corso del tempo, ma l'hanno fatto rapidamente i mercati finanziari, come reagiscono sempre, può essere che ci sia una correzione di nuovo verso l'alto, se una volta che si è visto che, non lo so, le multinazionali si accorgono che ci vuole tanto tempo perché la Brexit possa avere luogo e che i negoziati cominceranno chissà quando, insomma, che magari possa anche essere non realizzata nei termini e nelle modalità che si ritenevano all'inizio. Quindi di fronte a questa situazione i mercati si sono messi in stand by, o quasi si sono messi a dire forse non succederà nulla di per sé, e magari anche le aziende, soprattutto quelle multinazionali, che sono quelle che devono decidere se rilocalizzare la produzione da dove è piuttosto che in un altro paese, possano decidere di tornare sui loro passi. Quindi io suggerirei di aspettare almeno un altro mese per vedere se queste tendenze si consolidano. L'altro mese però è agosto, e quindi è un tipico mese in cui invece l'attività economica spesso in Europa raggiunge dei livelli molto limitati, e quindi alla fin fine bisogna arrivare fino a settembre per cercare di capire meglio cosa succede. Aspetteremo quindi settembre, e soprattutto, da quanto lei dice, evidentemente si aspettano anche le mosse del governo di Londra per capire i tempi quantomeno dell'annuncio dell'inizio della Brexit. Le volevo chiedere poi, abbiamo detto dell'Italia PMI 51,2, rispetto agli altri paesi, leggo Germania 53,8, Austria 53,4, questa classifica riflette effettivamente la capacità manifatturiera poi di ogni singolo paese? Ma insomma riflette l'andamento la posizione nel ciclo economico dei vari paesi. C'è un graduale riposizionamento all'ingiù per tutti. La Germania però io direi che continua ad andare a gonfie vele, e quindi se la Germania continua ad andare a gonfie vele si tira dietro anche una parte rilevante dell'Europa, soprattutto dell'Eurozona. Certamente l'Italia soffre per problemi suoi, e quindi anche tipicamente le banche di cui avete parlato, certo, nella prima parte della trasmissione, che sono sicuramente un elemento che mina la fiducia dei consumatori quando vanno in un concessionario di automobili piuttosto che a comprare degli altri beni durevoli, e anche le aziende quando devono decidere se aprire oppure no un nuovo negozio, se è un'azienda del commercio al dettaglio oppure se invece è un'azienda manifatturiera, se devono aprire un nuovo impianto e in quale paese magari aprire questo nuovo impianto. Quindi questi elementi ci sono. Per il momento però secondo me si sta andando verso una situazione di crescita rallentata, ma non di crescita negativa, ecco, quindi magari 0,1 anziché 0,3 o cose di questo. Ecco, crescita rallentata, per quanto riguarda, tornando al caso specifico dell'Italia, riusciamo ad avere attraverso questi indici PMI, riusciamo a capire quali sono poi i settori merceologici maggiormente penalizzati, o tutto rientra invece in una massa dove è difficile poi orientarsi? No, ci sono indicazioni che sono anche specifiche del settore manifatturiero piuttosto che del settore dei servizi. Quelli che oggi ho visto riguardavano quelli del settore manifatturiero, quindi per il momento i dati su cui ragionare sono questi, ma sono anche quelli delle aziende che più facilmente sono magari globali, quindi che competono anche su più mercati, quindi quelle che sono anche un po' il nervo dell'economia italiana. Quindi sicuramente sarà importante monitorare nei prossimi mesi cosa succederà. Ecco, quindi sembrerebbe soffrire maggiormente quei settori che sono maggiormente legati ad un'esportazione. All'export-import, netta, diciamo, sì, certo, quelli più legati ai rapporti con l'estero, più che non strettamente con il mercato interno. Ecco, il mercato interno, ahimè, soffre invece più per le banche, più che non per l'interscambio con l'estero. E quindi conseguentemente ci stiamo avviando in chiusura di programma, possiamo anche geograficamente ipotizzare che forse le aree che vengono maggiormente penalizzate possono essere quelle più industriali della Lombardia o del Veneto, per le aziende che operano in quei settori lì maggiormente propensa all'esportazione. Sì. Mi vuol far dire delle cose che non so se si possono dire, in effetti, non perché siano segrete, ma perché questi indici sono troppo imprecisi, certo, da questo punto di vista. Certo. Teniamo anche conto del fatto, però, che le regioni che ha citato sono anche quelle dove sono localizzate le imprese più forti, e quindi le imprese più forti hanno anche le spalle più larghe per riuscire a reagire. Benissimo. Agli shock e agli andamenti negativi. Certamente. Quindi può essere un po' rassicurante da questo punto di vista. Benissimo, la ringrazio. Ringraziamo Francesco Daveri, docente di politica economica all'Università Cattolica di Piacenza. Per oggi è tutto, un ringraziamento a Leonardo Siligato e Lorenzo Rotella per l'assistenza al programma, a Valerio Rocchetti in regia un saluto da Vincenzo Miglietta. Radio 24. La passione si sente.